I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo dei consumi degli italiani, o meglio delle vendite al dettaglio nel 2015. Non è per essere cerchiobottisti, ma questa volta si può veramente dire che il dato diffuso ieri come consuntivo dall'Istat è veramente in chiaroscuro. È in chiaro infatti tutto il 2015, dove per la prima volta dopo 4 anni di cali consecutivi i consumi sono tornati a crescere, più 0,7%. Ed è particolarmente in chiaro per la grande distribuzione, che ha segnato un più 1,5%, e per i discount alimentari, più 3,5%, nonché i grandi esercizi specializzati, più 3,3%. Il dato, il bilancio, è invece in scuro e quindi non positivo, intanto per la maggior parte dei piccoli negozi, che hanno conosciuto un incremento del valore praticamente risibile, più 0,1%, ma è in scuro anche per quello che riguarda la parte finale d'anno. Gli ultimi 3 mesi del 2015 hanno visto infatti una variazione negativa del volume delle vendite, e dicembre è stato un anno molto debole quanto a consumi. Il timore qual è? È che il rallentamento dell'economia internazionale e anche europea si sia fatto sentire a fine d'anno e che si sia entrati nel 2016 con il freno a mano tirato. Se fosse così, le ricette sarebbero quelle classiche, note ma spesso non applicate: riduzione laddove possibile del carico fiscale, ripartenza degli investimenti pubblici in modo che ripartano anche gli investimenti privati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Tra Italia e Commissione Europea sembra tornare un po' di sereno. Oggi Matteo Renzi e il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, si sono incontrati a Palazzo Chigi. Era un incontro molto atteso dopo le tensioni a tratti aspre delle scorse settimane. Come è andato il faccia a faccia e che cosa si sono detti i due leader, in particolare su quei 14 miliardi di flessibilità sui conti pubblici che tanto stanno facendo discutere Roma e Bruxelles? Renzi ha ribadito un principio importante, e cioè che l'Italia userà la flessibilità che le sarà concessa, il che sembra voler dire che non ci saranno forzature qualora l'Unione Europea dovesse chiedere una correzione sui conti pubblici, correzione che non necessariamente sarà chiesta e che in ogni caso dovrebbe essere molto molto contenuta. E ancora, Renzi ha confermato la prospettiva della riduzione del debito pubblico, come chiede l'Europa, ma non all'interno di un quadro di inutile rigore. Una visione molto simile è arrivata anche da Juncker, che ha detto come sia assolutamente corretto che l'Italia usi la flessibilità che viene concessa dalla Commissione Europea, e ha aggiunto che in ambito finanziario i punti di vista del governo italiano e della Commissione UE non sono poi così lontani, perché la Commissione è consapevole che la flessibilità vada applicata con saggezza e non spinge assolutamente per un'austerità stupida e cieca. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.